Praticamente tutta la settimana che aspettavamo questo momento e lo speciale set Remember Techno. Verranno fiondati 1000 starlight sulle vostre teste per illuminare la sala. Offerti da Vulpis, DJ ed Emo. Com'è che si fa? Revolution, Revolution. E allora dai! Quest'oggi verrà presentata la console sotto shock. Special guest Raph Enjoy e Ivan Talco. E allora abbiamo capito che Barriera di Milano è presente quest'oggi. Però ci sono tanti ragazzi che vogliono alzare le mani al cielo per lo speciale Remember. Sulle mani, questo è Vulpis Demo. Verranno lanciate anche gli Starlight, sponsor by Vulpis e Demo. Ospiti Raph Enjoy e Ivan Talco. Torino. Siete pronti al lancio? Allora le mani al cielo, Revolution, dove sono? Una pioggia di starlight si sta battendo sopra di voi. Sulle mani, Revolution! A tempo! Questa è la domenica pomeriggio più pazza d'Italia. Questo è Vulpis e Demo. Questo è Revolution! Carica, carica, carica, carica, carica, carica! Revolution! Piano, una alla volta, ce ne sono per tutti. Vogliamo però vedervi impazzire. Fuori la voce! Come? Ah. Le mani a tempo, Revolution! Le mani a tempo! Ehi, ehi, ehi, ehi! Pochi minuti, un altro lancio Starlight. Sentire un coro che fa Revolution, Revolution, Revolution. Alti Starlight. vegliare di alzare su verso il cielo. Puoi alzarmi uno starlight verso il cielo? O un accendino o un display del telefonino? Voglio vedere tutti quanti le mani verso il cielo. Facciamo magia ancora quest'oggi pomeriggio insieme. Revolution, la domenica pomeriggio di Torino. Speciale Remember Set. Dove sono tutte quante gli starlight al cielo? Fatemi vedere gli starlight! E pronti a partire per questo grande viaggio. Pronti a partire tutti quanti insieme! Pronti ad esplodere! Revolution! Ciao! Ripartire, vogliamo vedere le vostre mani al cielo, per favore, le vostre mani. Questa è la domenica di Torino, questo è il suono che vi serve per ripartire, questo è il set Remember offerto da Vulpis DJ ed Emo. La illuminiamo la sala? Ce l'avete un accendino? Uno starlight? Ho un telefonino, potete tirarmi pure sopra, grazie. Questo è lo spettacolo. riparti così. Sentire le mani a tempo, per favore, che dobbiamo iniziare con lo spettacolo. Voglio sentire le mani battere al tempo, Revolution. E allora siamo pronti per ballare? Come? Revolution, Revolution! Ehi! Pronti a partire? Sound! Cassa, grazie! Vulpis! Revolution, ci avviciniamo alla console per favore? Vogliamo avvicinarci alla console e alzare le mani al cielo? Questa è la domenica di Torino, la numero uno della musica di tendenza. Come? Batti le mani! Più forte! Questo si chiama spettacolo! Revolution! Attenzione! Alzate le mani! Vi sta facendo una foto! Ciao! ripartendo col suono. Set musicale a cura di Vulpis DJ, dedicato a voi, popolo del Revolution, Torino! Come, come? Revolution! Avvicinarvi alla console per gli ultimi Starlight. Più vicini alla console. Dovete avvicinarvi più vicini alla console. Non troppo. Massi, vai pure con il lancio. Popolo Revolution, possiamo alzare gli Starlight al cielo? La vogliamo creare un po' di atmosfera quest'oggi? Alziamo gli Starlight, per favore, e illuminiamo la sala. Questo era lo speciale set dedicato a voi. Pronti ad esplodere! Revolution! Simone sempre sotto la console, ci riè! Pomeriggio. Torino che riparte!